Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantarelli in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Avevamo preparato una bella festa con tanti invitati per il triplete delle squadre italiane nel top 16 di Eurolega. Gli ospiti sono arrivati, la festeggiata meno. Allora abbiamo il sospetto di una Milano un po' col cuore di panna, due partite che contavano in questo inizio di stagione, una meno 32 a Siena, l'altra meno 15 ma senza mai giocare, quella di ieri con il Valencia. Ovviamente abbiamo coach Dan Peterson, ciao coach. Ciao caro amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. E poi dopo lungo e insistito corteggiamento da Sky, Claudio Angiolini. Buongiorno a tutti, non è vero, smentisco. Cala dalle tribune la sentenza, una voce grida vergogna. Milano si mangia il destino perdendo la partita che vale la stagione d'Eurolega contro il Valencia. Lo scrive Werther Pedrazzi sul Corriere della Sera di oggi. Ciao Werther. Buon pomeriggio a tutti, ciao Carlo. Allora coach, la festeggiata non è arrivata. Milano fuori dall'Europa, perché è inutile star lì a raccontarci delle frottole. Vince l'ultima in casa del Panathinaikos, Valencia perde con l'Olimpia Lubiana già qualificata. Non succederà mai, Milano è fuori. Mai nella vita. Hanno ovviamente sciupato l'occasione ieri sera d'oro, pur giocando in un campo per loro neutro, però avevano le loro possibilità. Uno, come ha detto Pedrazzi nell'articolo, come abbiamo detto noi nella tavola cronica per Sport Italia, innanzitutto ciao Verte, ciao Claudia, e quindi hanno ciao, detto coach. Che non c'era taglia fuori, e poi non hanno tirato bene, e la differenza secondo me, se io non sono molto per cercare le strafinezze tecniche, però guarda caso che Milano ha cercato un attacco diciamo verticale, penetrazione, cercando la soluzione, invece Valencia ha fatto passaggio lato destro, passaggio, ritorno al centro, a sinistra, e hanno trovato questo ragazzo libero 5 su 7 da 3, semplicemente con buona inversione, buon movimento della palla, ribaltando la palla da un lato all'altro, senza tanti grandissimi schemi, è stato veramente fatto molto bene parte loro. Milano, grande peccato nel tiro, grande peccato, taglia fuori, hanno preso tipo 17 rimbalzi in attacco loro, e quanti sono stati convertiti in canestro, quindi veramente con le loro mani l'hanno fatto, perché se fanno taglia fuori, magari non prendono rimbalzo, ma non lo prendono loro, la palla casca per terra, non hanno fatto. E voglio aggiungere un'altra cosa, come abbiamo detto qui più volte, Milano può piangere su ieri sera, ma le due partite che hanno condizionato questa Eurolega, le due partite con l'Olimpia e Lubiana, certo, sciupando più 16 in casa, più 14 in casa, 46 a 32 all'inizio del terzo quarto, e poi a Lubiana più 7-3 minuti dalla fine è sciupato anche quello lì. Quindi sì, queste sono occasioni perse. Tu non esci dall'Eurolega per una partita sola, esci dall'Eurolega perché ha sommato diverse sconfitte. E ieri sera, come ha detto Werther Pedrazzi molto eloquentemente questa mattina, è stato veramente un grandissimo peccato, cioè veramente sciupata l'occasione, non si sono presentati all'impegno, e bisogna dirlo. No, non pervenuti per l'appunto. Claudia, i signori qui a Biella, io l'ho visto in TV e ho visto un film già passato diverse volte con Milano che fa una fatica dannata anche a giocare contro la difesa schierata, e questo è un refrain, è un vizio capitale, un peccato originale che Milano non si toglie mai. Sì, problemi in attacco che aveva anche l'anno scorso, con un attacco che fatica a velocizzare, diciamo, la manovra. Il problema è che Milano ha sempre la sua caratteristica è stata la difesa, invece ieri abbiamo visto, probabilmente Bucchi ha detto ha pagata la tensione, il problema è che il salto di qualità lo fai quando in queste partite la tensione non ti mangia. Certo, certo, pagata la tensione, ma non Werther, non è anche compito dell'allenatore allenare la tensione? Probabilmente stai portando il discorso sul binario, sull'unico binario di analisi possibile, perché altrimenti si rimane davvero molto sconcertati. Sono due gli appuntamenti di diversa valenza e importanza, però ai quali la squadra era attesa, una conferma di leadership a Siena, e non si è presentata come hai detto giustamente. Ieri sera staccare il primo obiettivo stagionale e non si è presentata. Allora perché Milano fallisce gli appuntamenti? Perché per Milano la carica emotiva si trasforma sempre in paura, come quel tale proverbiale che canta a squarciagola di notte nel bosco, ma non è perché è contento, è perché cerca di esorcizzare la paura. Evidentemente questo io non voglio andare oltre o attribuire colpe e meriti. Sicuramente è l'allenatore che deve gestire forse l'aspetto più difficile, altrimenti allenerebbero in Italia tutti, però sicuramente molti. Questo è l'aspetto delle tensioni e la gestione emotiva di un gruppo, è l'aspetto più difficile. Quello che è invece fondamentale per continuare il discorso di coach Dan Peterson è che Milano si presenta sempre senza certezze, che siano certezze che ti portano lontano o meno, però la squadra ha vissuto ed è sopravvissuta sul post basso di Mancinelli e aveva preso il miglior tiratore della squadra, che è Pecero. Perché ieri sera giocava Mancinelli in post basso e Pecero, scusate, in post basso e Mancinelli fuori? Non si è capito. Perché la difesa di Milano, come giustamente sottolineava Claudia, ma perché Milano non ha avuto tanta continuità, ma ha mostrato nelle partite precedenti degli ottimi sprazzi difensivi. Ieri sera era nulla, assolutamente nulla. Allora giriamola al coach, la considerazione tecnico-tattica di Werner Pedrazzi e anche la mia, coach, la tensione tu l'hai allenata in carriera un sacco di volte alla vigilia di partite enormemente più importanti di questa. Non è compito dell'allenatore allenare la tensione? Poi è chiaro, è uno dei compiti più importanti e ovviamente questo ce l'è. Non vuol dire allenare le tensioni, diciamo la gestione della squadra, la motivazione, l'approccio psicologico alla partita. Io dico spesso in telecronica, anche quando ero a Sky, adesso Sport Italia, dico per esempio il tiro non è solamente un gesto tecnico, il tiro è anche un gesto agonistico. Tu devi tirare come è tirato per me Roberto Premier, Mike D'Antoni, gente, con agonismo, cioè tu devi, con la tua mente devi anche dominare la palla e telecomandare la palla dentro il canestro, e Milano non aveva questo, cioè io lavoravo tanto su queste cose qui, e anche per esempio gli schemi, anche Claudio ha fatto un'osservazione perfetta, se vai contro difesa schierata sempre non è una cosa profittevole, soprattutto nei tempi di oggi dove tutti hanno DVD, ti studiano, sono atleti a fare dei cambi, dei raddoppi sistematici, quindi meglio andare in contropiede. Ma io dicevo anche alla squadra, spesso che se vedevo loro troppo meccanico, troppo organizzato, ho detto, ragazzi, non mi fate un piacere, non fate i miei schemi, non sto vivendo dei miei schemi fatti bene, non sono ammalato di questo, cioè, su questo qui. Attaccate, ok? Prendete la palla e attaccate la difesa, il canestro, andare. Questo è stato il mio approccio con loro. Io sono anti della scienza del basket, cioè, gli scienziati mi stufano, ok? Il basket è un'arte, bisogna fare anche questo, e quindi attaccare. Io sono schiavo della semplicità, tutti i discorsi strafine mi fanno veramente venire di sbadiglio, ok? Quindi io sono per andare a giocare la nostra partita, non la loro partita, attaccare, sì, e non per fare gli schemi, eccetera. Quindi io non dico, parlando allenatore Piero Buchi, non dico sbagliato, giusto, meno, cioè, sto solamente raccontando quello che hai fatto io, tutto lì. Certo, Claudia chiede la parola. Sì, perché volevo dire una cosa pro Piero Buchi, cioè in questi anni comunque Milano secondo me ha dimostrato sempre di essere una squadra che non molla mai. Certo, ieri non si è visto, ma questo non mollare mai forse è una cosa che è arrivata anche da Buchi, chiedo a voi se la pensate così. E noi rispondiamo, salutiamo coach Dan Peterson. Grazie a tutti, rispondo anche i Buchi, se hanno giocato una partita strepitosa con cuore 8 giorni prima contro Efes, ovviamente merito va su, qualcosa non è quadrato ieri sera. Comunque, amici sportivi, ciao, saluti a tutti. Palla spicchi. Allora, torniamo. 800 24 00 24. Avevamo Claudio Angiolini che ha lanciato questa corda a favore di Piero Buchi, che come sappiamo divide un po' la tifoseria milanese, inutile nasconderlo perché basta andare al palazzetto e si capisce. Sì, e ha fatto benissimo, perché in questo momento è d'obbligo un grandissimo equilibrio. Sai, si dice che gli italiani sono un popolo di allenatori, ma anche di correttori di bozze. È facile pescare l'errore, che è una categoria che non esiste più, è una delle più apprezzate nel giornalismo. Facile pescare l'errore, ma in un pezzo già scritto. Quindi sicuramente ci vuole molto equilibrio, ma il nostro schiavo della semplicità ha centrato un problema, perché poi ci sono degli episodi, dei particolari che spiegano il generale. Io sono rimasto davvero molto confuso quando ho visto in due o tre occasioni Hawkins saltare l'uomo, arresto in centro area, non c'era più nessuno e ha riaperto la palla per il tiro da tre, due volte è stata intercettata. Ora è ovvio che se hai un giocatore come Hawkins e dici guarda una nostra opzione è salti l'uomo, chiudono e riapri, ma se non chiudono e hai il canestro da solo devi farlo. E questo testimonia del vero problema, di una non serenità. Coach Pitolo dice attaccare, Milano non ha mai attaccato. A un certo momento al mio vicino gli ho detto ma se giocassero 10 minuti da playground liberi questi li travolgono, perché sarà stato... Anche perché dall'altra parte non c'era la corazzata. Bravissimo, oh, su questo io vorrei discutere, perché è arrivato Pesic, c'è un allenatore di peso e allora tutti così. A me il Valencia è sembrata davvero poca cosa, una squadra abbastanza grama con la quale non si doveva e non si poteva perdere in casa. Claudia. Volevo chiedere a Werther se il fatto che Hawkins scarichi fuori la palla nei momenti decisivi tu pensi che sia un sintomo solo di non tranquillità o magari, non voglio adesso gettare la croce contro Hawkins, o una caratteristica del giocatore? Ah, io questo Claudio, forse tu li segui anche molto più di me. Io penso che a nessun giocatore quando vede il canestro libero davanti faccia piacere non fare due punti, non lo so, nella mia genetica. Però io onestamente, in maniera assolutamente onesta, e quindi è un'opinione, quindi probabilmente anche sbagliata, ho pensato che ci fosse una sorta nella squadra di autocoercizione all'esecuzione di uno schema e che mancasse quello che ha detto anche Peterson, che il basket in fondo è anche arte, anche improvvisazione e anche cogliere le occasioni che ti si presentano, cogliere le occasioni che ti si presentano. Poi ci sono, mi dispiace, questo per onestà intellettuale devo assolutamente dirlo, perché secondo me è stato un particolare che è stata una chiave di come si è indirizzata la partita. Pronti via, insomma, questa Milano è vero che non c'è Petravicius, però non possiamo sempre giocare nel paese dei lillipuziani, non è mini golf, è basket. Allora sempre, c'è stato un lungo momento in cui il più alto del quintetto era Mancinelli e all'inizio Hawkins era contro questo Claver, 1,92, 1,94 contro uno di 2,06 metri. Sì. E Hawkins cosa ha fatto? Due falli subito. E soprattutto se tu giochi in velocità, lo strapotere fisico di Hawkins può avere una chance, ma se giochi, come diceva Peterson, a gioco fermo, è quello che arriva più vicino alla banana e più alto ti mette in difficoltà. Ragazzi, vorrei provare ad allargare il discorso, perché legato a questo c'è il fatto della grande delusione, deriva dal fatto che per una volta potevamo presentare tre squadre alle Top 16, cosa che non si succede da un pezzo. Tutto sommato anche le nostre dell'altra coppa non stanno andando male. Poteva essere una specie di, beh, oggi nevica, è dura dirlo, però una specie di primavera anticipata del basket italiano. Questo spiace a maggior ragione, no Claudia? Sì, sicuramente, anche perché i progetti di pre-season erano almeno per arrivare alle top 16 e diciamo sinceramente non è così difficile arrivare alle top 16, poi magari la Lottomatica avrà avuto un girone facile, però la Lottomatica in piena crisi. Come la vedi la Lottomatica? Che tutto sommato ha fatto un paio di passi fuori dal buio, uno a Teramo e l'altro che conta meno perché ha già qualificato in un girone strano. Però ha battuto anche Malaga. Io dico che a Teramo ha dato una grande dimostrazione di squadra. Adesso una grande dimostrazione, bisogna che non sia inaspettata, che non sia un episodio. Lo vedremo già domenica mattina a Biella, perché c'è una partita non facilissima. Sicuramente non hanno giocato contro l'allenatore, come si diceva in questi giorni, però Roma c'è una specie di virus, non riesce mai a fare il salto, neanche Roma, che un po' ce l'ha anche Milano. Apro una piccolissima parentesi: l'anno scorso Hawkins, intervistato Werther quando era a Siena, ha detto io sto bene qui perché io non sono un leader unico, io ho bisogno di tanti altri leader. Questa potrebbe essere anche una chiave, no? Sì, poi dopo, poco dopo, ho fatto arrabbiare, come ti ricorderai, è stato l'unico milanese e l'unico milanese contestato a Siena, perché subito dopo ha detto che bene come Milano non si vive in nessun'altra parte del mondo. Il ragazzo mi sembra abbastanza ondifago quanto a scelte geografiche. Chiamano, se vuoi, paraculismo. Non so se si può nella radio, no, della non Confindustria. Si può, non si può. Ecco, benissimo. Massimo Cremona, Stefano Modena, primi due ascoltatori di oggi, 800 24, l'ho detto troppo veloce, 800 24 00 24. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, prima di tutto volevo associarmi alla vergogna del vostro ospite, perché... Gliela rileggo? No. Cala dalle tribune la sentenza, una voce grida vergogna. No, fa senza rileggerla, perché io avevo 14-15 anni e mi ricordo la vecchia Olimpia, sì, del coach. Quindi va bene. Parlando di Milano, mi sembra che siano un attimino troppo lunghi i tempi per recuperare Petravicius. Sono 2 anni che devono recuperare questo qua. Non è mai arrivato. No, infatti. 16 certo, partite, no, l'anno scorso, e quest'anno usciva dall'infermeria, andava a giocare e ci ritornava in infermeria. Per carità, ben venga per lui, che ha pagato lo stesso. Ecco. Sì, e mica poco. E mica poco. E seconda cosa, parlando di Cremona, io avevo telefonato dopo Cantù Cremona e avevo detto che secondo me quest'anno c'era da sudare. Mm. E lei era d'accordo con me, se si ricorda. Sì. Alla luce degli ultimi risultati, prima di Pesaro, eravamo anche un attimino sognatori. Non dico di cose grandissime, però quale magari... attimino, secondo me Cremona è stata fino a domenica la vera grande sorpresa di un campionato stranissimo in cui il fattore campo salta come un merlo, in cui i pronostici sono impossibili. Non so se questo è simbolo di alto livello o di livellamento verso il basso. No, ma io tutto sommato lo trovo un campionato interessante. Lo era anche un po' di più fino a un mese fa, quando sembrava non avere un padrone, mentre mi sa che finisce alla stessa maniera degli altri anni. Volevo chiedere, alla luce del roster di Cremona, che domenica hanno giocato con 8 uomini più Conti, 37-38 anni, quindi, sì. Tagliando Zocchetti, perché ormai abbiamo il Petravicius della bassa, sì. Uno come Mo Taylor, non so se lo ricorda, preso, sì, abbastanza. Per fare 5 minuti non può andare bene. Ma se prendi Mo Taylor per fare 5 minuti, insomma, mi sembra tappi. 5 minuti e prendi un altro, non vai a prendere uno che comunque guadagna un sacco di soldi, che comunque è un giocatore importante. Insomma, mi sembra impegnativo Mo Taylor per 5 minuti. Claudia? Sì, poi anche lui ha avuto diversi problemi fisici, si è sempre presentato in Italia abbastanza indietro in preparazione, non ha fatto vedere grandi cose, di fronte a un Zacchetti che non può giocare, magari Mo Taylor, però mi sembra eccessivo. Werther? Caro Massimo, vero? Esatto. Caro Massimo, mi permetto il tu, te la boccio per un semplice motivo, perché giocatore sublime, però mi sembra completamente fuori distonia dalla bellissima Cremona che Tomo Maoris sta mettendo in piedi, di basket essenziale, di grandissima difesa, di transizioni, di sovrannumero. Mo Taylor è un giocatore che gli dai la palla, gli altri 4 si devono fermare e lui se la lavora sotto canestro. Quindi mi sembrerebbe non il giocatore più adatto. Non adatto filosoficamente, proprio anche tatticamente. È bellissima comunque la Cremona di quest'anno, e gioca davvero. Ha ripescato Marco Milic, che ha fatto fin qui, ha fatto un anno da califfo. Ma mi dicono, ho una carissima amica cremonese che mi dice spesso che Marco Milic è anche un uomo assolutamente stupendo. Sì. Grande uomo squadra. Sentiamo Stefano da Modena, abbiamo ancora un minuto prima di fermarci per la borsa. Stefano. Sì, ciao. Ciao. Ascolta, prima cosa, Bucchi, cioè, è una cosa che viene da lontano. Io tengo Treviso. Da un anno, diciamo di 9, 40 secondi dalla fine, dalle tene con l'IK, tattica suicida di Bucchi, riusciamo a dare supplementare e perdere. E seconda cosa, Secondo te Benetton quando è che farà un'altra grande squadra? Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Benetton secondo me questa non è una grande squadra, ma è una squadra molto interessante, che è partita molto male, è piena di giovani. I giovani quando sono riusciti a togliersi di dosso il peso dell'angoscia che derivava dalle sconfitte, hanno fatto una striscia di 7, se non ricordo male, se non sbaglio, tra campionato e coppa, e 7 vittorie. Hanno perso di una in casa con Biella domenica scorsa. Mi sembra una squadra che comunque sta crescendo bene. Da lì adesso è una grande squadra, secondo me ne passa ancora un po', ma allargheremo la discussione ai nostri ospiti dopo la borsa. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con me Claudio Angiolini, Werder Pedrazzi, c'è Fabio dalla provincia di Siena. 800 24 0024 vostro numero verde, messaggi 349 238 6666. Via un pagliaccio, ne arriva un altro, povero Allegri, Fabrizio da Biella, di questo parliamo domani, dalle 5 alle 6 e poi dopo domani dalle 4 e mezza alle 7 eccetera. La programmazione la conoscete. Calcio domani, altra volta, anche se sono stati sorteggi Champions League, abbiamo avuto una fortuna sfacciata, secondo me. Fabio, buongiorno. Buongiorno, vi dico da buon toscano, la finiamo di parlare di Milano e parliamo un po' di Siena. Ho capito, però la notizia gli è Milano, non gli è Siena. Non parla di Milano, no. Oggi, l'ultima volta, non ne parliamo più tanto, è finita. In Eurolega sì. Scusa, da buon emiliano, caro Fabio, vorrei sapere se nell'eventualità remota che non mi auguro e che non vi auguro Siena andasse male, sarebbe della stessa opinione di parlare di Siena. No, scherzavo. Benvenuto. Dicevo questo, grazie, complimenti, perché per me è un piacere sempre di ascoltarvi. Una cosa, chi è che ha guardato di voi la partita della Mezzana ieri sera? L'avete vista? No. Biella giustificato. Io guardavo la difesa, la difesa Menzana è stata fantastica, ha fatto delle cose, dei recuperi e quindi veramente una lezione di basket, e quindi io volevo fare complimenti all'area tecnica appunto della Menzana, perché al di là ovviamente Pianigiani mi ha dato una lezione pazzesca. Sì. E secondo me quest'anno la squadra, io sono convinto, riuscirà a dare soddisfazione maggiore l'anno scorso in Eurolega. Quindi secondo me hanno fatto un lavoro incredibile. Sì, in pochissimo tempo. Al di là della fede nella squadra e tutto quanto. Ieri sera vedere i primi due quarti della partita è stato piacevole, una cosa veramente da incorniciare. Sì. Tutto qua. No, lei ha ragione, però vede, noi tentiamo di fare i giornalisti e questa gli è una notizia, cioè, Siena sia così. No, invece scusa, non per fare il solito bastian contrario, ma questo è un anno di grandissima prova di Siena, anche perché le difficoltà, diciamo, seppur veniali, dell'inizio della stagione e le acquisizioni progressive che sta facendo. Ha ragione Fabio a fare i complimenti allo staff tecnico tutto, allargati anche alla società, naturalmente Pianigiani in primis, ma è proprio la dimostrazione di un grandissimo lavoro, di una capacità di programmare, di scegliere, di avere delle certezze, di difendere, di sapere prendere la strada giusta. La difesa di Siena a volte è addirittura irritante, da tanto che è perfetta, però Simone è riuscito a raggiungere quello che è l'utopia, ma dovrebbe essere la normalità nella difesa, che tutti i giocatori, tutti e cinque, non solo quello che è contrasta, che ha la palla, si muovono intelligentemente, chi chiudendo una linea di passaggio, chi anticipando, e quindi è veramente quello che si chiama un sistema, io l'ho definito una volta, non tanto di difesa ma di attacco all'attacco avversario. Certo. E quindi su Siena i complimenti devono piovere. Forse ha ragione Carlo che la notizia non fa notizia. Secondo me invece, Claudia, a me che sorprende non è tanto questo livello di perfezione ormai raggiunto, quanto il fatto che è stato raggiunto così rapidamente, perché non è passato tanto, sarà passato un mese e mezzo da quando ero a Varese a vedere Siena, che sembrava una squadra molto slegata e molto incompleta, perdere contro Charlie Recalcati. Hanno fatto in fretta da morire. E qui, ragazzi, questa è la vera consacrazione, secondo me, di Simone Pianigiani, perché voglio dire, nessuno pensava, allora lì c'è tutto lui, naturalmente il suo staff, però qui c'è tutto il lavoro di questo allenatore, che voglio dire, anche Raković, quando l'abbiamo visto, dicevamo, oddio, chi hanno preso? Ok, è arrivato a sostituire Eze, non c'entra niente con Eze, però sembrava quasi che non riuscisse a stare in campo. Adesso è diventato anche lui un fattore, secondo me. Qui è questo non sono i quattro, non solo i quattro scudetti consecutivi, questa è la vera consacrazione di Simone Pianigiani. Come la vedi Siena in Eurolega? Perché vai a guardare il record, in questo momento è la squadra più vincente d'Europa. Ma io credo che tutti all'inizio della stagione la vedessimo come arriva alle top 16. Adesso Simone Pianigiani ha detto che il nostro obiettivo era arrivare alle top 16. In realtà è vero anche che le altre squadre, con Barcellona piena di infortuni, non sembrano così stratosferiche, né il Panathinaikos né l'Olympiakos. A questo punto non lo so, sembra anche che siano sul mercato, no? Per cui cominciano forse a crederci anche loro, cosa che probabilmente non credevano all'inizio. Claudio, bisognerebbe anche sbilanciarsi. Io penso Siena in Eurolega meglio dell'anno scorso, e sai perché? Perché l'anno scorso in Eurolega, dove ci sono cacciatori potenti, era come sparare al cinghiale, coriaceo, difficile da uccidere. Quest'anno è come sparare ai conigli, e non sai se li prendi. Il fatto di avere il miglior play d'Europa come McIntyre era un grande vantaggio, però focalizzava anche l'attenzione degli avversari. Il merito vero è che loro hanno fatto un passettino in avanti, Montepaschi ha fatto un passettino in avanti nella costruzione di squadra ancora più interdipendente e indipendente. Ma come ha fatto a far così in fretta, è quello che ti chiedo? Ma perché hanno le certezze, quello che ti parlavo di Milano. Loro costruiscono delle cose, poi prendono Finley, grandissimo giocatore, ne vogliono fare il playmaker, il succedaneo di McIntyre. Vedono che playmaker non lo diventerà mai, cosa fanno? Lo danno a Milano. Cioè, loro hanno delle certezze, provano, e quando si accorgono, e quindi avendo una linea, come si accorgono di sbagliare strada, se ne accorgono al primo passo, no? Quando ormai non sanno più come tornare indietro. Però è talento, lavoro, certo. E anche grandi capacità. No, adesso io non voglio sciogliermi in grandi lodi, perché bisogna essere sempre qui. Ma Simone Pianigiani, prima che un ottimo allenatore, è una persona intelligente, nel senso letterale, che intus legge, che sa leggere dentro le situazioni e trarne le dovute conseguenze. Allora, è un gruppo fenomenale, dai, è un gruppo fantastico. Sacco di ascoltatori, dobbiamo parlare con loro con grande piacere. Allora andiamo... 800240024, Stefano, provincia di Milano, poi Luca, provincia di Milano, e già intuisco l'argomento. Alberto da Udine invece non lo so, a meno che non sia Udine, che sta comunque facendo benissimo in Lega 2, però bene. Lo scopriremo vivendo i prossimi minuti. Stefano. Buongiorno dottor Genta. Buongiorno. Volevo fare ancora i complimenti per tutta l'attenzione che mi concedete sempre. Ehi. E chiedere chi è il giocatore più migliorato del campionato. Grazie. Porca miseria, domandone che io rimbalzo ai ragazzi qui. Mancinelli. Cioè, Mancinelli così? Da Tome. Ha giocato una partita. Benissimo, due. Però. Due, dai, appunto, anche quella di Euroleague. Partiva da zero. No, questo non vale. Pensa vale. Renato, ha giocato... No. Dai. Da Tome sì, però l'abbiamo visto. Cioè, se, quando ne gioca 15 così, poi vediamo. Il giocatore più migliorato del campionato, a me francamente non viene in mente così. No, sai che io non sono... No, mi trattengo. No, perché? No, non sono d'accordo con Claudia, pur essendolo. Perché? Perché Mancinelli può dimostrare, questa è una dei miei denti avvelenati con Milano, che sono proprio obiettivi, e me ne assumo la responsabilità e sbaglio. Tu pigli il miglior giocatore italiano l'anno scorso e lo metti dietro a Maciulis se gioca un ruolo sotto, o a Michael in quell'altro. Oggi Mancinelli ha un ruolo definito nella squadra e si sta dimostrando il giocatore che legge meglio il basket. Hackett. Sì, bravo, grande Claudio. 5 a Claudio, perché effettivamente qui più che miglioramento è autentica resurrezione. Resurrezione, vabbè, aria di casa. Regeneration. Luca, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, una considerazione. Io ieri sera ho guardato, cioè l'altra sera ho guardato qualche secondo della partita di Siena, e poi ho cambiato perché ho capito come andrebbe a finire, non perché sia un genio, ma ho visto la faccia, cioè, di Siena-Milano, lei dice? No, Siena, ho guardato Siena. Quella di ieri sera, sì, ieri sera, perdono, era iniziato da pochissimo, credo stessero già 6, 7, 8 avanti, ma ho guardato in faccia Pianigiani in un time out e ho guardato i giocatori come si muovevano. Ha ragione il suo collega, di cui non ricordo il nome, mi scuso, ma è imbarazzante come loro giocano in difesa, sembra che gli altri siano gli uomini del calcio a balilla, tanto per intenderci, cosa che invece quelli di Siena erano spaventosamente sul pezzo, cioè sì. Sì, no, non ci vuole... un piccolissimo trascorso di basket, ho avuto la fortuna un pomeriggio di allenarmi con Re Calcati, ho anche telefonato quel giorno che c'era. Ah, sì, come no. Non dica mister, sennò alzo il cartellino giallo, No, mister, domani che... quando parliamo di calcio. No, assolutamente. Dicevo che è imbarazzante la facilità con cui Siena veramente ha preso a girare. Sì, no, io sono tifoso di Varese da sempre, sono felice, strafelice di come sta giocando Varese, ma Siena è un'altra cosa. Cioè, Siena è un'altra cosa per tutti, tanto che secondo me finisce come le altre volte. Io sono convinto che quest'anno magari potranno avere, diciamo così, qualche passaggio a vuoto, l'hanno già anche avuto in campionato, ma quest'anno in Eurolega la festa è finita. Io penso che la festa sia finita anche in campionato, mi sbaglierò, ma secondo me finisce come in altre stagioni e Siena rischia di vincere senza combattere per davvero, e questo non è necessariamente un bene, anzi tutt'altro, no? Sai, è partita talmente male Roma e ha talmente giocatori giovani che non riesci a capire se lavoreranno tutti bene, quali sono i suoi margini di progresso. Sì. Io mi aspetto anche. Speriamo. Mi aspetto qualcosa. Tu, Claudia? Io do la colpa a tutte le altre a questo punto, basta. Adesso Siena ha ricambiato tutto e ha detto ok, ripartiamo, non da zero ma quasi, e sono dove sono, e le altre stanno a guardare. Hai ragione, no ma è indubbio che sia così, Siena fa il suo lavoro, sono le altre che lo fanno un po' meno bene, anzi molto meno bene. Traffico, poi appunto andiamo a Udine, poi torniamo a Milano con Leonardo, a dopo. Palla spicchi. Allora, chissà di che cosa vuole parlare Alberto, e poi Leonardo, e poi Davide da Forlì. Alberto, buongiorno. Buongiorno da Udine. Com'è allora, il tempo? Nevica come qui a Milano? Nevischio, stava cominciando a nevicare anche qua, dai, arriva anche qua. Generale inverno. Ma quello è d'obbligo. Innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione. Non me ne vogliono i presenti, però un particolare anche per saluto alla Claudia, che noi di Udine vorremmo tornare a rivedere. Sì. Sapesse lei che fatica ho fatto a farla venire qua. Una delle più belle trasferte, quella a Udine. Lo diciamo sempre. Tornate presto, se noi ci saremo ancora. Mettetela con i violini, però. D'obbligo. Basta i violini. Volevo sapere cosa dite di questa Snyder innanzitutto, e dopo vorrei sapere, perché ho letto in un quotidiano sportivo in questa settimana, ci sono dei problemi con le wild card, che magari le società di Serie A a uno potrebbero avere dei ritorni economici, volevo avere però non si sapeva bene. Alberto, allora della Snyder dico che Gigi Garelli si conferma un bravissimo allenatore, dico che è una squadra che non mi aspettavo lì in alto e invece è lì in alto, perché come al solito mi sono sbagliato, e sulle wild card dico che non sono così convinto, sentiti i venti che fischiano in questi giorni, che si arriverà alla fine del campionato senza vederlo zoppo, perché basta leggere sulla Gazzetta di oggi e sentire un po' in giro come è messa Avellino per capire che chissà come evolverà la questione wild card. L'hanno talmente ingruppata la questione delle wild card che, come dici tu, non ce ne sarà bisogno di ripescare, perché probabilmente il campionato italiano deve smettere questa cosa qua. Io mi aspettavo tantissimo da Dino Meneghini, mi aspetto ancora, però la certezza delle regole in qualsiasi società, grosso piccola, allargata o meno, la certezza delle regole è fondamentale. È con emozione che seguo il campionato della Snaidero, perché mi ricordo quando Giovincello venivo a giocare al Carnera e rivedere il vecchio Carnera ritornare in auge così, e con la speranza che poi ritorni in Serie A, è davvero una grande soddisfazione, ma soprattutto, come dicevi, è una soddisfazione vedere giovani tecnici che sanno costruire. Questo è il problema, non solo gestire, che sanno anche costruire spazi, squadre e risultati. Sì. Quindi complimentissimi per lui. Complimenti, la Snaidero poi è un'istituzione, deve tornare assolutamente, sta tornando. Wild card hanno anche cambiato in corsa, perché poi le squadre di Lega 2 hanno detto sì, ma noi quando è che sappiamo se sì, certo, la penultima paga i soldi per rimanere in Serie A o no, e noi che playoff facciamo? Esatto. Mi sembra tutta una follia. Mi sembra una follia essere qui un anno dopo Napoli, parlare di un'altra campana, sì, che presumibilmente, anche se glielo auguro, di arrivare a fine campionato, presumibilmente non ci arriverà, perché insomma i conti sono lì da vedere, le dichiarazioni sono lì da leggere. Tu parlavi, bello Carnera, sono contento che ti piaccia, cara Claudia, però io vorrei avere l'emozione ogni tanto di vedere qualche palazzetto nuovo, perché mi piacciono i santuari, però vorrei vedere qualche palazzetto nuovo, cosa che ragione. In Italia è solo una questione emotiva, la mia è perfettamente no, ma anche a me, no, cioè, adesso smontano il Paralido, mi spiace un sacco, però fanno un palazzetto meraviglioso, quindi ben venga, insomma, come è bellissimo quello di Biello. Ah, sì. Biello strepitoso. Leonardo, buonasera. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, sono allenatore di settore giovanile di calcio, sì. Ma appassionato di basket. Mentre guardando una partita di calcio riesco a capire dove c'è la mano dell'allenatore e dove magari un po' meno, dove c'è un errore o meno. Nel basket, che io amo come sport di squadra, che più di squadra non ce n'è probabilmente, dov'è che è così fenomenale sto Pianeggiani? Perché veramente questo è fenomenale a questo punto. Cioè, da profano mi affido alla vostra competenza. Ma... Ragazzi, però qui abbiamo bisogno di qualche ora. perché insomma, dire esattamente dove si veda, in quali dettagli si veda la mano di Pianeggiani, guarda, io vorrei semplificare in maniera estrema, non so se siete d'accordo. La mano di Pianeggiani si vede negli occhi dei suoi giocatori. Claudia. Sì, negli occhi dei suoi giocatori, nel fatto che crei un sistema in poco tempo dove tutti giocano insieme e poi riesce a far rendere al meglio ogni singolo giocatore per le proprie caratteristiche. Poi sul campo, Franco Casalini per esempio sostiene che a quei livelli un allenatore poi in campo non è che possa fare molto, non è che sbaglia a mettere la zona quando deve farla uomo e viceversa. Tutto il lavoro prima, Pianeggiani, sì, hai ragione, avremo bisogno di 2 ore di tempo, posso credo. Posso fare una sintesi? Sì. Cultura sportiva, scegliere prima gli uomini, non stiamo a entrare nelle competenze tecniche, giovane, intelligente, informato. Cultura sportiva vuol dire scegliere prima gli uomini del giocatore, scegliere prima l'uomo plasmabile e insegnargli a giocare a basket. Vuol dire richiedere, imporre che l'allenamento deve essere più duro della partita. Sì. Io ho avuto un allenatore così che cacciava i giocatori che dicevano ma se mi faccio male in allenamento, lui diceva scusa, giochi una partita alla settimana e fai 7 allenamenti alla settimana, è più probabile che... Quindi massima durezza negli allenamenti e soprattutto... la cultura sportiva, anche se difficile da digerire, pretendere e esigere che se a un avversario puoi dare 30 punti non ti puoi accontentare di dargliene 29. Ecco questa famelicità della sua squadra che insegna molte cose e crea un'identità forte. Bravissimo. Velocissimo, Joseph Forte, considerato da tutti una testa calda, a Siena ha reso, segnava credo 14 punti a partita, anche questo, perché sapevano che era così, perché le altre squadre non funzionano. Se ce n'hai uno si deve adattare, esatto, alla Cassano. Cultura. Gli mandiamo Cassano. No, Cassano io saprei dove mandarlo. Ne parliamo domani, ascoltatori, domani. Perché dalle non mi inviti domani, Cassano. Tu sei sempre invitato, anche Claudio, non vedete mai. Abbiamo 2 minuti, Davide da Forlì. Sì, buonasera. Volevo solo un accenno che può sembrare polemico. Io mi chiedo però quando la FIP, gli organi federali sistemeranno questa pallacanestro che sta andando un po' alla deriva. Società che falliscono, regole cambiate in corsa, programmi quinquennali su leghe minori che poi dopo un anno vengono già rimessi in discussione. Mi chiedo se non è normale mettere delle regole che vengono rispettate per più di qualche anno, invece tutto questo continuo, cambiamo, wild card, non si sa, crea solo della gran confusione a livello... soprattutto nelle minori o nelle squadre minori si fa sentire. Sì. Ovviamente sono squadre che trainano atleti di livello anche internazionale, però dietro io vedo molto poco. Sì, è difficile dargli torto, insomma. Anche a me questa storia della wild card sembra abbastanza una porcheria. Poi i fatti ci raccontano come magari del WCA non c'è bisogno, perché magari il campionato di Serie A finisce zoppo come l'anno scorso, e allora di che cosa stiamo parlando? Ha ragione ascoltatore, io non so che cosa si possa aggiungere, anche perché non c'è più tempo. Ragazzi, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. L'invitata non è arrivata, ma io alla festa mi sono divertito. È perché sei cinico. godi delle disgrazie altrui. Chissà quando Claudio Angiolini mi tornerà a trovare. Io torno tutti i venerdì, se vuoi. Sì, voglio ridere, voglio vedere. Adesso l'hai detto a tutti, voglio vedere. Werther invece torna, perché ogni tanto passa a salutarmi a me qui nell'eremo. Grazie a Franco Biantanida per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Domani dalle 5 alle 6 aspettiamo insieme l'Inter, che appunto alle 6 giocherà contro la squadra africana di cui ora mi sfugge il nome. No, non è vero, però insomma, domani ne parliamo, ecco, a domani.